intendi? Non si intendi, no. Com'è la questione qua? Va bene? Eia. Aspetta, basta, andà meglio. Andà per fra. Bella è la radio, va bene? E te credo. Cappa di positiva, la grande, no? Temmo. Via. Nessuno su 10? No, non c'è nessuno. E allora impenna. Guarda che ti faccio mangiare un brodino di mamma, Temmi. Hai capito? Bello bene. Per il telefono. Capa di positivo qua, tutto sotto controllo, cambio e faccio. Salve. Sto andando a trabajar, cambio. Ofra, Franco, attento Califano, attento Franco California. Salve, no, che ero, stavo facendo cosa, vado a rubare per un buco, compreso, sennò è un casino. A mai Davide... Quanto ti arrivo il segnale? Guarda un po', 1, 2, 3, macinino. Sono per 30, sì. E io come sto arrivando? Segnale 3, radio 5. Certo, me l'ho immaginata. Cos'è? Con la tena di gomma, so, capito. E anche io. Sono in macchina, sto andando a lavoro, gabba. Non ho problemi. Vedi, come ti arrivo io? Natalino, quanto... Davvero, Salvi. Salvi, paura arrivare, mi. Capito. E allora dice che gli faccio paura, ma... Beh dai, il più basso sono io, capito. Dalle 5, Radio Venere, cambio. Cambio. Andiamo qua. E dai, comunque, già ti ascolto bene, non ci sono problemi, capito. La radio come va? Accetta che attaccurassi la radio, che ti voglio dirmi in cuffia. No, volevo sapere come va, se è preamplificata la radio. Prova a vedere, aiù. Come? Prova. Oh, yeah, a giudizio della radio è preamplificata. Capo di positivo, va benissimo, una bombetta, alla grande, 9 in cambio. Cabagaba, radio Cabagaba. Ma Cabagaba è Cabagaba. Cabagaba, di Cesella, di fronte alla chiesa di San Sacro Cuore, davvero di un scelto, figata, ragazzo. Cosa tratta di che portati lei? No, cosa, c'ho uochi tutti, c'ho solo il 10. Ah, ho capito, sì. E le altre radio cosa ne hai fatto? Non tu ti dirai. C'era freddo, finito il pellet, capito? Ah, l'hai bruciato, ho già compreso. Ecco, ma quell'affare là, venduto poi a vivi. E qual era? Il coso, il distretto. È sempre dentro il mobile, pronto all'uso. Ah, non l'avevo venduto, perché dite che le rivendendi? Non si è fatto avanti nessuno e rimane lì, capito? E io ho un 300, però è a 12, non è a 220. Che beh. Mi prende Natali. Se c'hai un 737, ce l'hai un 737? Ce l'avevo, l'ho già dato, l'ho venduto. C'avevo il 747, il 737 e il 757. Cava. C'è io. No, ho capito. Io c'ho il 747 CTM. Io c'ho il B300 della CTM International, capito? No, tu il B300 c'è della ZG. Ah, cioè ZG. E va benissimo. E bollissimo, solo bollissimo. Allora ti avete fatto un brutto. Funziona bene. Basta dare pochi va. Chiaramente se dai dei batti d'ingresso dice una merda, è normale, no? Vai Natali. Cava. E da voi gatto cosa ne fa? Io non ne attacco quasi mai perché è sempre nel mobile. Hai bagabulletti altri, ma cosa mi nafutti? Va bene così. Va bene come sto uscendo, non ne ho problemi io. Arrivato appunto il trabacco, vi saluto e stetevi bene. Sempre un piacere. Altrettanto. Ciao Salve, ciao. Buon trabacco e buon tutto e ce la riascolta nei prossimi. Vai Natali, sì. Comunque la radio era preamplificata, di russo. Anda bene Mela. Senta bene, ha una bella modulazione anche di russo. Sono contento, cazzo, solo noi ci siamo qua, non entra nessuno, sono tutti assenteisti. No, sono tutti con gli orecchi di porco qua che stanno ascoltando, capito? l'altro. Sai che provo l'altro e provo a aumentare un po' quel microfono a vedere, che spengo questo, dai. Guarda la radio, ce la devo aumentare o abbassare, o se va bene così. No, va bene così. Lascio così allora. Sì, signore. Forte come radio, va bene? Sì, anda benissimo. Ok, dai, allora la lascio così. Anda bene meda. Una schioppettata. Su 15. Cosa, Natalina? È una schioppettata. Io? Gara, gara. Te credo. Già va bene. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Come ti dici? Che ci vuoi fare? Fai sale un attimo. Io già siamo qua, gara, gara. Presta a salire un attimo. Salire? Ehi. E anche maggio del fondo di tutto, e perdeva. È stato lo più bello, sta. E a mai da vedere. Porca, faccia vedere. A te pari e fede, no? Ma ce ne capisce più niente, queste previsioni non ne hanno messo più, cioè fendeva. Sono i giorni della merla qui, ci sarà freddo per almeno altri 3 giorni. La merla, noi la merla la spariamo. La merla, e noi ripareremo la merla, Natalina. Capito? A palla o a pisigoni? A palla la spariamo con le palle. Cavagava. Cavagava tutto sotto controllo, guai, capito? Non ce n'è. Sì, infatti. Avanti, potete in giro, 23 canali. Sì, sta bene. Questa è la radio della mutua. E già va bene lo stesso. Hai capito? Hai capito? È poco antica questa. Questa c'è il microfono originale, è normale, va bene, eh? Già lo so che va bene. Io cerco. Il reli, c'è il reli questa. Questa c'ha il microfono della mutua. Cappa. Già spinge. Certo che spinge. E vabbè, ho fatto 3 canali. Antico. Chi ti ha fatto la guerra, mi Natali? Sì, anche questo. Vanno bene, già vanno bene. Faccio come avete detto, occhio. Comunque sta piovendo un bel E ha detto, ma 50 che sono i giorni della merla, dura 3 giorni, scusi. C'è sempre tramontana, perché ho chiamato un amico che era giù e gli ha detto, dice che c'è mare brutto pure. Ecco. Ecco, avanti. Ciao Giovanni, buonasera. L'hai sentito, lì c'è tramontana, lì è. Giù, se ne andi due a piccare. Vorrei andare a piccare, ma c'è mare brutto e non ci sono andato. Ma dove sei, a casa Giovanni? Emmo, sì sì. Stamattina provavo a entrare, non c'era né Cristo né Santo, cazzo. L'altro giorno ho viaggiato, l'altro viaggio che ho fatto, ho riuscito, esplorato, oggi già sono stato riuscito a Chiero Gruganta, adesso sono riuscito a regolare questo cazzo trovato qui. Ma perché ero riuscito, ora giù gli ha fatto. Allora ti potete tendere un io. Senta, farò la gara. Giovanni, come ci sto arrivando io a te? Natalino, tu sei? Sì, ah. Natalino, se questo Smith non è fatto, di radio c'è a te. Ti sei bene? Però di radio sia a te. Via, va bene, anche tu stai arrivando bene qua. Guarda a me come mi ascolti, Giova. Affidabile, cazzo. Bra, perché si è spostato a 4, 4 di radio, compreso. Ega, chi è che si è spostato a 4 di radio? Tu, ma non è affidabile, ti ho detto, questo Smith, non è affidabile, è solo in veranda, sono, mi capito, no, non è affidabile. Beh, ma la radio come te, bella. Io ti sento bello, forte, chiaro, pulito, capito, ma no, come te segnali, cazzo, non li vedo in oggi. Ah, non li vedi? Adesso ti avete ci rubato. Vabbè, da ci rubato a varo, segnali. No, e ci vado non, poco e nulla, nemmeno fa 5 è arrivato, fra il 3 e il 5, però ti ripeto, cazzo, sono lo Smith, non faccio affidamento su questo, Gianfranco. Sta già con 3, ti dice, ti ha fatto vai. Ma giudizio di non faccio affidamento, non ci fare affidamento su questo. Ah, perché c'ha lo Smith rotto, cosa c'ha? Bravo, non ci fare affidamento, dunque non ti posso dare nessuna informazione, non ti posso dare nulla, compreso. E va bene, è importante che mi intendi, da quel barorretto non mi interessa. rissa. Certo ti intendo, a voglia. Prova a sentire un campo, ma non lo so così. Se ti piace, prova a meglio da un momento. C'è la doppia room. Capito. Magari lì mi ascolti meglio. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera. Ben entrato. Ciao Fra. Questo è il Ruiz, come va? Una bombetta, di lusso. Questo è il nonno di tutti gli apparecchi. Vai benissimo. Con chi sei, Fra? Ah, c'era Giovanni Stanco, la Platanone e Natalino. Cappa, ciao Giovanni, ciao Natalino, dai. Buonasera a tutti e due, avanti Natalì. Cappa, ciao Gianni. Ciao Natalì, mi hai sentito, dai. Cappa, cappa. Hai cambiato apparecchio? Sì, c'ho quell'apparecchio vecchio. Ha regalato questo apparecchio un amico e ci ho attaccato quel TAR nel mio. Cappa, no. Già esce bene, Già esce bene, sì. Già esce bene. Natalì. Ciao, va bene. Amico Franco, avanti. Aspetta, fai un passaggio a Natalì che ti do un controllo. Guarda, prova, 1, 2, 3. 9.30, sì. Già da te, quant'è? 9.30 lo stesso. Prova, Natalì. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, anche qua 9.30. Cappa, va bene. E poi Ruiz non fuggi, con Ruiz non fuggi. Allo Smith molto preciso. Te l'ho detto, l'apparecchio va bene. 9.30 qua e 9.30 là. Lo fa, a me mi piace un bel questo apparecchio, lo sai. No, c'è una bella modulazione. Uiaia. A te mi controllo un caffè, ossia che me ne scendo in terra. O parte la caffettiera, però c'è qua. La caffettiera nel cuore, capito? Prego. Sì, c'è Giovanni. Ma forse mi ascolti. Natalì, tu c'hai un bel segnale, mi avvisi a 7 sul camper, ok? Mentre Gianni e Franco 9.30. Dove sei, Franco? O Stanco? No, adesso sono a casa, sono, capito. Però sono passato nel camper, perché qui non posso dare il riscontro con questa radio, lo Smith non funziona. Ma dove sei passato? Magari sei passato sotto un gas. Io sono in casa, gioco Remo. Ah, non sei in camper, io ho capito che eri in camper. In camper sono passato a vedere che se funzionava, se vi aspettavi un riscontro. Ah, ho capito, là. E oggi lavori, Giovanni? Più tardi fatto, nuovamente a Olbia, più tardi fatto, intorno alle 6, dai. Cappa, cappa. E rientri? Domenica Manzano. Oh, Giovanni, ti volevo dire, ma con quella radio là stai provando? No, sono in veranda, sono sempre in veranda. Perché ho provato a parlare con l'altro, no, non è sto cazzo, vi ho chiamato un paio di volte, vi sento bene, segnale 9.30, Natalino 7, a te a Gianni doppio runo, 9.30, però cazzo no, io non riesco a uscire. Ma con quella radio là, con quello che ti ha regalato tuo fratello? Positivo, no, non è sto cazzo, non riesco a regolare, io non lo gioco nemmeno che me ne è passata la fantasia. Portalo qua che te lo regolo io, Giova. Sicuramente il macchinino, guarda che magari avesse il macchinino al minimo, prova a metterlo al massimo, tu lo dici di radio, perché il segnale era anche forte stamattina, ma la radio esce basso a basso. Ma non è problema di RFI già, è problema di menu, ha toccato il menu lì, bisogna entrare nei programmi e riformattare tutto il menu, capito? Che apparecchio? È un coso, è un Superstar 2009. È al menu, vabbè. Ah, 2009, ho capito, 3009. Sì, ma non ci vuole nulla, basta entrare nel menu e vedere modulazione e aumenti, basta, metti più e aumenti, non ci vuole nulla. Ma camera a me, Giova, dai, te lo metto a posto io, che c'ho tutto il menu in italiano. Quello è buono, vedi, chiedilo che poi lo facciamo, cazzo. Ti rubassi e te lo porto, quando rientri ti te lo porti, assegui tu. No, vai, attaccate tutto, cazzo, fra un'ora mia, vai, entro alla mamma e sono pronto a farci. E allora, una tra di, vai dentro. Tu, io, Mi sa pare che quando tre al menù se non riesce a fare, immagini quanto c'è. Va bene raga, vi saluto, dai. Ciao, alle prossimine. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, stammi bene, dai. Buon viaggio. Ciao, Giovanni, saluta il QRA che la parte è mia. Buon viaggio e buon tutto. Vai, Natalì. Ciao, ciao, va. Buon viaggio e buon tutto. Alle prossime. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, ciao, come vi a tutti, bene? Grandi. Tragedi, modifiche. Franco! Gianni, tu non devi aprire un microfono. Questo non lo sai che microfono è? Questo è la Static, quello che c'ha il filo 2 metri. Dove ci vai sul microfono? Questo costa 70 euro, lo guardo visto su internet, 76 euro costa. Però Tanner più 3 sul sito Radio Mattui, 100 euro. Dipende dal modello, fra. Questo modello qua l'ho visto a 70. Poi c'è l'altro, c'è Red Devil, che è quello rosso, diavolo rosso vuol dire, no, Red Devil. E quello lì costa ancora di più. Ma tu sai, ma tu non c'avevi il coso, il Sadelta? No, questa è la Static. Sadelta non ne ho più, non c'avevo più le Sadelta e le stavo più tre, li ho venduti. Ma non ne manco un microfono d'attacco. Cosa fra? Adesso non c'è il microfono da tavolo. Ma a me il microfono da tavolo non mi interessa niente. A me mi interessano quelli da palmo perché io modulo con il ricatto e mi va meglio quello da tavolo che da palmo che da tavolo. Qual è la trombetta? Una trombetta sotto, eh. Lascialo trombettare. Mi prendi la carina. E aspetta, sto facendo cosa? Oh, io ya. Sta piovendo, sta allucinando. Tutto il giorno prendeva, Di nuovo, e allora ci mandò della porta del cane stanotte. Allora quindi ho chiamato un amico mio a Battamona, mi ha detto che in Pietramontana, ecco perché c'è freddo. Vabbè, e allora che ci hanno fatto qui su freddo? No, già, c'è da piccare, dopo una ghita zuppa. Perché ti prende le ossa, ti prende l'umidità. E adesso a primavera, quando cominciano le belle giornate, già me la faccio qualche pescata, ma adesso c'è troppo freddo, già non fanno. Mi ha dovuto accendere la stufa in cucina a 1000. Sì, capace che adesso mi metto a posto la gamba anch'io, se Dio vuole. C'ho le canne che stanno ridendo fra, in terrazzo, pronte già tutte. Pronto per lanciare. Io mi ho sistemato tutte poi la cassetta di pesca che c'era con un marinotto e mi ho cambiato anche la sacca, e con la sacca che c'avevo veramente rotta e me l'ho comprata nuova. E la sacca me la devo prendere anche io, questi sono rotti manici, lui la sabbia è tutta fragile. Allora io l'ho presa la Decathlon, però già mi ho preso quella rigida stamattina. Praticamente ne smonto i mulinelli, perché i mulinelli mi stavano rovinando tutte le gambe, perché si tocca una con l'altra e mi rigraffia. Certo, allora nella sacca c'ho tutto, c'ho il giubbotto, c'ho il cappuccetto da mettermi in testa, c'ho il ricambio per i mulinelli, c'ho i mulinelli, c'ho un sacco di roba, e più ci metto anche tutti i piombi, l'attrezzatura, la cassetta con l'attrezzatura dentro. Io c'ho tutto già, c'ho la tuta termica, gli stivali termici. Canne da pesca lancio mi pare 7 da lancio, c'ho 3 italcane evoluzione, una miscele, dopo c'ho, cosa c'ho? Una Shimano e poi c'ho un'altra Shisping sempre da lancio. Io c'ho l'Olympus, le altre sono tutte di marca lo stesso, non mi ricordo cosa, i mulinelli sono lo Shimano 8000, lo Shimano 7000, l'altro quello vabbè che uso per quello piccolo che uso sempre Shimano, che uso per calamari, seppie eccetera eccetera, rimane piccolino quello lì. Ah, già ce l'ho anche io attrezzatura buona, c'è anche una canna libera da fare, da mettere il mulinello da sistemare, e una canna da lancio, capito? Sì, ne ho canne da pesca, di canne da bolognese con le piante ne ho tre, c'ho una Shimano, una Daiwa e una Colmic. Sì, anch'io c'ho una Colmic e l'altra non mi ricordo cosa sia. Però sono tutte di marca, quelle che ho io. L'Olympus me la ricordo perché quella lì è la cannetta cannosa, che sono imbestato di Tugato. Cioè, non c'è un 3 di carne, sempre lunghi da bico. E vabbè, Io ne ho tre, ne aggiungo e pescano sempre quelli due, quelli intatti all'evoluzione. L'altra è qualcosa, sì, ma quelle là sono forse perché lanciano di più. Ma io con quella canetta cannosa lancio tutto, proprio tutto il filo lancio. E al mulinello lo scimano con la 7000, lancio tutto. Devo recuperare perché se non è nel mulinello, rimane solo il pezzo con l'oro. Cioè qualcuno si è messo nel canale di aceto e sta splatterando. Franco, ci sei fra? Si sarà spostato. Che sarà sull'11, cavolo, stavano splatterando, non capivo nulla di quello che diceva. Chi è sull'11? Li ho fatti spostare, dai. Sono messi sull'11 a parlare, cavolo, sapendo che sull'11 siamo noi, si mettono sull'11, lo fanno apposta. E a rompere le scatole, dai. Ti ho chiesto gentilmente di spostarsi perché non capivo nulla di quello che diceva Franco. E Franco è vicino. Boh, si è spostato Franco. Ah, io non lo sento più. Frank, attenzione, Frank Zappa. Cosa già? No, Frank sto chiamando, Frank Zappa. Califano, sì sì, Califano, può comodare. Boh, se sente un caffè. Attenzione, dici, c'è qualcuno? C'è gente che sta splacerando, boh. Oh fra, adesso cos'è? Adesso no, adesso è poco facile perché erano sull'11 e sono andato a avvisare lì di spostarsi perché stavano sfatterando. Ma adesso è propagazione, ma in tutti i canali, in Inghilterra a Gogo arriva, l'inglese arriva a Gogo. Ma che vuoi che ti dica? Adesso sono, è la propagazione che sta arrivando talmente forte che compra anche a te e fate un conto. Sì, me lo posso immaginare, allora. Io sento dei fischi, sento una fusta. Oh, cazzo, ma si devono mettere proprio qua che sta a rompere. L'11 alfa sono. Ciao Carlo. Carlo. Mi? Ciao, buonasera. Eia, come ti sta arrivando lì? È Natalì, qua, fondo scala sempre, radio Super 5. Ehi, sto usando un apparecchio di quelli antichi. E ci ho messo il Turner più 3. Va bene, già va bene. Chi c'è oltre te, Natalì? Sì, c'era Franco qua e poi c'è Gianni, doppio room. E si sente slaterale, ma mi sa che sul 12 alfa c'è qualcuno che sta facendo delle prove fischiando. Sì, infatti, ma non se ne possono andare. Lo sanno che sul 10 ci siamo noi e si mettono loro a rompere le scatole. Io poi ho detto, ma dove si sentiva questo slaterale, eccetera? Gianni, come va? Ehi, ciao Carlo. Va bene, va bene. No, poco fa sono andato sull'11 perché erano a fianco e non si capiva manco Franco quello che diceva. Li ho fatti spostare, dice, noi siamo qua. Ehi, siete qua, però vi spostate perché noi siamo sul 10, cavolo, sapete che siamo sul 10. Boh, vabbè, adesso si sono messi sul canale alfa sicuramente a rompere. Infatti, perché se esci con tanti watt già si sente anche sul 10, anche se sei solo su 2 o 3 canali sopra, capito? Salvo che te ne vai sul 20, 22, 23, magari lì non c'è nessuno e disturbi di meno. Anche sul 40 se ne possono andare, almeno non li sì. Anche sul 40 va bene. sta lì, mi hai detto che è una radio vecchia questa che stai usando. Questa che sto usando io, sì, questa qua risale agli anni 70. Quella di Natalino, Gianni. Ah, sì, anche io sto usando una radio vecchia, capito? La mia non è vecchia, è vintage. E questa è vintage, secondo te? Non ne ho capito nulla, realtà. Ho detto che è del 64 questa antenna, questa radio. Ma più di 50 anni. Cappa, scusate un attimino. È del 64 all'età mia, Natalì, 59. Figurati. Lui di... E c'ha pochi canali, c'ha solo la M, 23 canali c'ha solo questa, e di quelle tutte quartate un po'. Me l'ha regalata un amico, questa qui, e io ci ho attaccato il channel più 3, quello grigio americano. Ho capito, quindi c'ha solo la M, così, però già c'è bene. Sì, per questo qua già va bene. Io ho voglia, per fare quattro chiacchiere va più che bene. Te, anche te, li sblatteri dagli altri canali. Natali, l'ho portato a aggiustare meglio l'orologio. Era l'accumulatore partito, ma l'ha cambiato, 7 euro e c'è l'orologio di nuovo funzionante. Infatti. A carica, diciamo, solare? K, sì, con la carica solare, e l'Eco Drive della Citizen. Io ne ho due di quelli, capito? Sì, a volte si ferma perché, diciamo, anche quello c'è l'accumulatore che va sostituito. Ma dopo io ce l'ho già 6 anni, questo accumulatore. È come le batterie della macchina, ti durano quel tempo lì e poi vengono sostituite, però è stato più che onesto a farlo pagare 7 euro con tutto quanto, ma non ho per il tutto. Poi ho fatto mettere la batteria e fargli fare la prova dell'acqua, perché questo è subacqueo, quello l'altro che c'ho adesso al polso, che è bellissimo anche quello. Ho fatto fare la prova dell'acqua e messo la guarnizione, e dopo tanti anni l'ho fatto riandare. Ecco Gianni, da chi l'hai portato? Quello che c'è appena più giù di Piazza Azzurri, c'è il tabacchino, poi c'è questo qua che ci sta gli orologi, li vende. Ma più giù di Piazza Azzurri? Sì, più giù c'è il tabacchino, e poi un po' più giù al corso rimane questo, tutto il figlio del tabacchino nella stessa fila. Forse ho capito dov'è, sì, perché se dovessi averne bisogno di cambiare l'accumulatore, perché io uno dei due qualche settimana fa l'ho trovato fermo, però forse magari ha preso poca luce, quindi si è scaricato tutto. Poi l'ho messo in carica vicino alla finestra, no? C'era il sole, e adesso visto che ha ripreso a funzionare normalmente, capito? Però non vorrei che fossero le prime avvisaglie, magari sta iniziando a partire l'accumulatore. No, il mio Carlo non era, funzionava, però sgarrava gli orari, capito? Sgarrava di un'ora, di 2 ore. E l'altro è il Sector, che ce l'avevo forse 5 anni fermo, perché mi entrava acqua e dopo, che strano, l'ho portato e mi ha detto con ragione che gli entra acqua, non è stata messa la guarnizione, praticamente deve essere che chi gli ha cambiato la batteria l'ha rotta e non gliel'ha messa nuova, l'ha tolta completamente, per quello che entrava acqua. Adesso l'abbiamo fatta la pulizia bene all'interno, abbiamo messo la guarnizione nuova e adesso può dire di avere un orologio che funziona perfettamente, tante volte l'ho messo nell'acqua apposta e non è entrata di acqua. Allora gli hanno fatto anche la prova dell'acqua, perché è un crono della Sector, è molto bello anche, che l'avevo pagato, ti ricordi la carica, eravamo andati insieme a comprarlo. Sì, anche io ho questo della Citizen, che c'è l'Eco Drive, e poi ne ho anche uno della Braille, il Cribeccio della Braille. però quello c'è la batteria scarica, bisogna cambiare la batteria. Vabbè, comunque con 21 euro ho aggiustato tutti e due. Buono, perché io ne ho due Citizen EcoDrive, uno è normale, è un cronografo normale, e invece l'altro è quello radiocontrollato, praticamente quando c'è il cambio dell'ora legale solare lo metto fuori dalla finestra e si cambia da solo, capito? Capito. Sì, e poi io ne ho una cipolla che era di mio padre, praticamente ha anche la cartella in argento, eccetera, quindi però gliel'avevo comprato io a mio padre, l'avevo regalato al compleanno, e quindi di quelle moderne, di quelle che hanno la batteria proprio, che funziona la batteria, non è di quella a corda, capito? Facevo sempre ferma, non l'ho più caricata quella, la batteria. Prego. Avanti. Ciao Gianni, sto parlando con quel microfono, Franco. Buonasera a tutti. Va bene, Fra. Ma nell'altro mi sento l'alternata. Voi la sentite l'alternata? Sì, appena si sente, è vero. Come mai? Prova a mettere l'alternata di eco. Perché non c'è? Prova. Guarda un po', 1, 2, 3. E adesso quello è anche più forte. Va bene, la distanza sta parlando vicino, non era lontano. Però adesso abbassalo perché è troppo. E così è a zero. E io va bene. Però l'alternata non dipende secondo me dal microfono. Ebbene, tra l'altro no. Con chi sei? C'è Carlo, c'è Natalina, c'è Franco. Ciao Carlo, anche tu la senti l'alternata? A dir la verità no, sento l'eco leggero adesso, però la radio è pulita, io la sento pulita qua, il Santiago è fondoscala, per me va benissimo. Grazie, tu Natali, la senti l'alternata, la faccio bianco? No, negativo, io non sento l'alternata. Aspetta, avete parlato in due? Negativo, non sento l'alternata adesso. Quindi potrebbe andare bene con il microfono, vai. Una bomba! Ah, dai. I primi li metti a zero, i picchi li vedo di modulazione, un po'. Cappa. Va bene, Franco, va bene. Caspita. Ho cambiato solo la batteria, E allora era quello che era sottoalimentato, lo stava facendo. Infatti, se aumento mi sembra che inneschi invece. Bisogna usarlo al minimo, dai. Cappa. Prova a parlare un attimo. 1, 2, 3, prova. Cosa c'è? Che l'alternata ce l'avevo io con questo apparecchio, perché se tu metti il volume al minimo si sente leggermente l'alternata, è per quello che la sentivo io. Tu hai cambiato microfono invece, adesso sei amplificato, sì. Adesso sto uscendo con la static. Ah, un altro apparecchio. Va bene, dai, comunque l'abbiamo collaudato. Grazie ragazzi. Benissimo, Franco. Carlo, questi microfoni li abbiamo pagati davvero 91. Va bene. Io ho un MB più 4 nuovo, e praticamente con questa radio non lo posso usare, tanto non funziona, funziona come microfono normale, tanto vale che uso l'originale, capito? Quindi ce l'ho giù in garage inutilizzato, l'avevo messo sul Galaxy e lì andava bene, lì funzionava bene, praticamente è nuovo, non c'ho la confezione, però è nuovo come microfono. Prima o poi, non lo so, se serve a qualcuno lo faccio fuori oppure lo conservo. Cappagatta. E io un'idea già ce l'avrei. Come già? Un'idea ce l'avrei. Io ho una capsula di Tamer più 3 Plus. Quindi ci potrei staccare quella lì. Ho capito, sì. Ma non mi ricordo come ce l'ha, grande la capsula o piccola, che tu sappia. Lo so, non l'ho mai aperto io già. Forse Natalino lo sa. Come ce l'ha, grande o piccola la capsula, che non ricordo. MB più 4, più 5, eccetera. E vabbè, comunque, se non vendi, fammelo sapere, dai. E vediamo un po' cosa si può fare. Sì, non ci sono problemi già. Quando se ti serve me lo dici, te lo do, lo provi, vedi un po', provi l'attacco, ma per il Galaxy sì, è a posto, va bene, capito. Poi se tu vuoi cambiare la capsula eccetera, quello non lo so, io non l'ho mai aperto, ma se lo guardi sotto è lucido lucido eccetera, c'ha la vano batteria, mi sa che la batteria l'avevo tolta, forse c'era una 9 volt ma l'avevo tolta e poi non l'ho più usato. Vabbè, se non si usa si chiude, se no si uscirà. Ah, vabbè, dai, vediamo un pochettino, mi dici quanto lo dai e poi vedo un po', dai. Bene, una ventina di euro, no, non è un problema. Scatta, dai, va bene, dai, mettimelo da parte che ce lo prendo io. Già, e giù non si muove tanto, già. Scatta, poi quando ci vediamo, però, dai, dai, ci mettiamo d'accordo, buono, lo so, che io ho un'idea. Capito, se tu li metti la capsula sulla realtà del filtro dei ciommi forse gli si apparecchi. Io non lo so perché diciamo non li ho mai toccati i microfoni e quindi ho sempre usato microfoni originali nelle radio e diciamo non ho mai sentito l'esigenza di metterli quelli preamplificati per uscire più forte, tanto poi alla fine è quello più pratico è il microfono, quello palmare poi. Vabbè, ma ci sono i microfoni palmari che ti fanno uscire nasino, ti fanno uscire male, e col, magari con l'amplificato esce meglio, tipo il 3009. Io ho messo l'amplificato e esce bene, col suo originale mi dicono tutti che la voce è nasina. Sì, no, quello è vero, e alcuni microfoni già lo fanno quel difetto. E Natalino c'è ancora? Io sono qui, Natalino. Franco, tu ci sei? Stai uscendo male, non so chi tu sia, ma si sente un fischio, la portante, ma non si sente la voce. Ti attacco l'alfa lì, ma esce male. Ma... Sì, tu, Fra. No, niente, per niente, la voce sentivi che c'era uno sblatterio sotto, ma non si capiva niente. No, ho agganciato l'alfa lì, ma visto che sicuramente prende ritorni di radiofrequenza e va male. Ma... Adesso provo a aumentare il mic gain, poi un po', così, così al massimo, e però stai già innescando, ora, così va bene? Ti stai innescando un pochettino, e prima si sentiva l'alternata proprio. Ora, così va meglio? Lo abbasso ancora? Abbassalo ancora, Fra. Così a metà. Si sente quando non parli proprio il ronzio, così. Non so, Gianni, tu come lo senti? Sì, anche io lo sento così. È sicuramente a fare per la radiofrequenza. Beccato, sicuramente. Con lineare proprio, no. Come l'altro, anche l'M95 lineare ne scava di brutto. È strano però, boh. Un bel strano, ma sono vicini col lineare. Ah, il lineare dava parecchio, sarà 50 centimetri sulla destra, un lato. Invece con lo sciure non c'è problema, però è tutto. Sicuramente è schermato meglio. Probabilmente sì, vabbè, questi sono microfoni che però costavano 50, oltre le 50 euro, perché li ho visti io. Oltre le 50 euro costavano, fra, questi microfoni. Sì, sicuramente vuole più lontano. Ormai ci sono un po' di ritorno anche qua, per frequenza, troppo vicino. Va bene così, dai, dai. Comunque escono bene. Escono bene. Se ne metti anche un po' di checco, appena, va ancora più forte. Così è a 2. E anche troppo, 1,5. Così la battata. 1, 2, 3. Così va benissimo, vero Can? Sì, l'ultimo passaggio, quello era il migliore. Non mi ricordo, però prima, quando hai modulato prima, eri senza il lineare, no? Ah, quando ho provato la prima volta, addirittura rimaneva la portata inserita, figurati. Non sganciava neanche... Aspetta, era anche in bando laterale, il lineare. Non me l'ho neanche accorto. Parla piano. Parlo piano? Piano. Se no ti accavo le parole con l'eco, devi parlare più tranquillo, tu fammi di me veloce, sembra una macchinetta. Divido, chiedo. Mangio in fretta, lavoro in fretta e parlo anche in fretta. Cappa, dai. Prova a toglierlo tutto l'eco, vedere. così è a minimo. Non so se lo toglie del tutto però, Forse per togliere tutto devi agire dall'interno, dai due trimmer. No, così lo toglie tutto, così va bene, così al minimo va bene. Si sente bene, è forte, è chiaro. Cassa, una bassa, riprendita. Cassa. Per 9,90 ve le fisse tutto, si fa anche l'eco oltretutto. C'era qualcuno prima che stava provando a chiamare, però non lo so, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Non c'è nessuno, o magari o era propagazione, mi era sembrato di sentire una voce, una radio bassa bassa, capito? No, subito propagazione, io ho girato per tutti i cani, c'era l'inglese da tutte le parti. Inglesi a gogo. Sì, sì, ho provato anch'io, ho fatto un collegamento con questo 108 Romeo Echo 03 Nord Scozia, questo era vicino a Inverness dove c'è il Ben Nevis, però erano punti di propagazione ma arrivava anche Santiago 9, capito, e si sentiva benissimo, poi di colpo non l'ho sentito più. Sì, c'era un'onda di propagazione, si sentiva si sentivano le voci, ma non era continuo, capito? Era una propagazione, diciamo, passeggera. Esatto, poco e quindi non era molto stabile come d'estate, capito? No, io non ho collegato nessuno, ho solo girato per vedere chi è che stava disturbando, invece era questa propagazione. Vabbè, prima alle 11 vabbè c'era gente, però poi era la propagazione che rompeva. Eccomi, ho rimesso la bestia. Adesso sei qualcosa con lo sciure. A cambia. Diciamo che lo sciure, ben poco di va. L'ho comprato a mia figlia io per cantare, lo sciure è bellissimo come microfono. Tu scusate, è agganciato, adesso il macchinieri l'ho anche sollevato, no? non innesca niente. Magari si adatta di più come apparecchio, capito? Sicuramente, se costava così tanto già da allora sicuramente un motivo ci sarà, no? Certamente, come la statica, questa statica costa oltre le 70 euro.